5 anni fa, se ricordate, 5 anni fa ci aspettavamo tutti chissà cosa in occasione del ventennale del 68. Un evento mediatico per cui c'era stato promesso praticamente di tutto, rievocazioni, interpretazioni, memorie, polemiche, perché no, persino una definitiva sistemazione storiografica. Poi, come succede talvolta agli eventi mediatici, non se n'è fatto niente. L'anniversario è felicemente passato, la produzione critico-rievocativa è risultata quantitativamente e qualitativamente piuttosto modesta. Ma oggi, senza preavviso, sta forse per abbattersi sul nostro capo inerme un altro anniversario sessantottesco, quello del venticinquennio, almeno a giudicare da qualche strano prodromo. C'è Capanna che si è messo a scrivere sul Giorno, mi sembra, c'è stata una polemica ferocissima con Mario Cervi, figuriamoci, e domenica il Corriere della Sera ha dedicato all'argomento un doppio paginone dedicato alle idee, agli eventi, ai personaggi che hanno sconvolto l'Italia un quarto di secolo fa. Va bene. Alla maggior parte degli intervenuti, compreso un paio di ex, quegli eventi e quelle idee oggi sembrano alquanto deplorevoli. Niente di strano in un paese che ha fatto del pentimento la categoria principale della vita civile, nel senso che più uno si pente più può continuare a fare le cose di cui si è pentito, naturalmente. Tanto è vero che, se non mi sbaglio, tra le proposte di riforme istituzionali avanzate dall'apposita commissione bicamerale c'è quella di sostituire il vino di Mameli con quella vecchia canzone dei Rocks che suonava "Che colpa abbiamo noi". Non varrebbe neanche la pena di commentarlo, ma una cosa è parlare del 68 come un errore di gioventù, della gioventù propria e altrui. Un'altra è farne una specie di categoria negativa permanente della vita nazionale, come per motivi che francamente mi sfuggono cerca di fare l'articolo di introduzione al succitato paginone doppio, opera di un sedicente politologo che è meglio non nominare per non fargli pubblicità e che caldamente raccomando alla vostra attenzione. Perché capite? Nulla vieta di sostenere che la società italiana è quello che è, una società profondamente ideologizzata, dominata da una classe politica intellettuale narcisistica e prepotente, estranea al sistema delle garanzie liberali e portata a confondere il bene pubblico col proprio interesse personale o di parte, come conseguenza degli effetti perversi del 68. È un po' ridicolo, per chi conosce un po' di storia, ma si può fare. Confusioni ideologiche, tendenza al narcisismo intellettuale, atteggiamenti illiberali in quei tempi non ne sono mancati di certo, basterebbe sostenere che non c'è stato nient'altro e che quel movimento nel complesso è stata una rivoluzione vincente, che ha sostituito una propria classe dirigente a quella che prima dominava il paese. Ecco, se pensiamo a certi personaggi che sono passati per quell'esperienza, la proposizione potrebbe persino reggersi. Quell'esperienza certo poi l'hanno abbiurata, ma basterebbe non credere a quella biura, dire che è stata una pura formalità di fronte a cui solo pochi testoni hanno voluto sottilizzare, e se quelli sono ancora in galera o in latitanza, peggio per loro che se lo meritano, e il gioco è bello che fatto. Ma l'innominabile in questione non ha il coraggio di giungere a tanto, perché vuole troppo, come sa quelli che poi non stringono nulla, no? Lui il 68 lo vuole al tempo stesso persuasivo e sconfitto. Lo vuole incanalato nei regagnoli della storia, ma anche foriero di minacce da esorcizzare, perché capirete, se non ci fosse niente da esorcizzare non varrebbe la pena dedicarci un paginone doppio. E allora come si fa? Beh, è facilissimo, basta giocare sull'opposizione tra soggettivo e oggettivo. Il 68 era pieno soggettivamente di buone intenzioni, ma oggettivamente è stata una catastrofe. O anche, il 68 è stato sconfitto, è vero, grazie a Dio, ma oggettivamente agito da ritardante alla trasformazione democratica del paese. Questa ve la raccomando, no? Perché prima c'era una vecchia società clericale, liberale, autoritaria, arretrata, ma chissà come mai si stava evolvendo, era in corso di sicura evoluzione. Non vedeva l'ora. Poi è scoppiato il casino, rivolta, protesta, movimento, tutte cose inutili e deprecabili, che hanno bloccato questa evoluzione pacifica, e così hanno fatto oggettivamente il gioco della Democrazia Cristiana del Partito Comunista. Craxi non c'era, notoriamente, hanno fornito un alibi di sinistra alle principali porcherie politiche degli anni 70, e andare, vergognatevi ragazzi che ci avete consegnato alla Democrazia Cristiana. Oh, dite che non c'è niente di nuovo? Beh, no, non c'è proprio niente di nuovo. quella degli effetti ritardanti di un intervento un po' troppo vivace su un'evoluzione altrimenti pacifica e sicura è una formula vecchissima, è stata elaborata dai critici razionali della rivoluzione francese agli inizi del secolo scorso. Se leggete la storia incompiuta della rivoluzione francese di Alessandro Manzoni ce la trovate in pieno, anche ci deve essere anche nell'ancien regime del Tain. È una formula comodissima, perché permette di negare la rivoluzione senza identificarsi con l'ancien regime e quindi di appropriarsi degli eventuali esiti positivi della medesima dicendo che sono appunto oggettivi e che Robespierre hanno fatto bene a tagliargli la testa anche se istituito i dipartimenti che poi hanno funzionato benissimo. Il secondo argomento poi quello di fare oggettivamente il gioco di qualcun altro. Non occorre essere degli storici per ricordare l'uso creativo che ne ha fatto ai suoi tempi il compagno Stalin. È un espediente altrettanto comodo, permette di liberarsi dagli avversari politici più temibili senza negare la loro sincerità e la loro buona fede, perché sono caratteristiche magari note a tutti, ma siccome il gioco dell'avversario l'hanno fatto oggettivamente, io li posso mandare in Siberia o far fucilare senza problema alcuno. Occasionalmente, tra l'altro, l'operazione si può invertire per appropriarsi degli effetti benefici di un'azione proveniente da personaggi sulla cui insincerità e malafede tutti sono altrettanto sicuri. È un argomento molto usato per Craxi oggi, per esempio. Un porcone, un venduto, ma il suo governo però ha eliminato la scala mobile. E vabbè, c'è la provvidenza. Craxi a parte, non sarà sfuggito a nessuno di voi che alle spalle di entrambe le formule non c'è niente meno che la concezione idealistica della storia, quella di Hegel, perché solo se la storia si evolve in base a una propria logica oggettiva, se ha una realtà che trascende i tentativi e le volontà di noi poveri cristi, di noi poveri esseri umani, si può parlare di chi ne ostacola o di chi oggettivamente ne favorisce il corso. Non è esattamente una teoria liberale, naturalmente, anzi nella cultura contemporanea è stata traslata dall'hegelismo soprattutto grazie a certe formulazioni marxiste, ma ciò non importa. L'idealismo, come sappiamo tutti, è dialettico e la dialettica è tanto comoda. La dialettica permette di affermare che una cosa è vera e contemporaneamente che è falsa, che il 68 grazie al cielo è stato sconfitto e che in un certo senso è al potere, per cui se ne può parlare male senza fare la sembianza di uccidere un uomo morto, che è una cosa che non sta bene. In fondo, l'innominabile autore di cui ci siamo occupati è un intellettuale italiano e nulla piace di più agli intellettuali italiani che attaccare il potere, a patto, naturalmente, che sia un potere sconfitto. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo noi?